adesso è finita. Si conclude oggi la mia vita, il mio tempo è passato veloce e adesso si esaurisce su una croce. In fondo sono stato sfortunato, condannato dallo Stato solo perché ho rubato. E il fatto è che per sbaglio sono entrato nella casa della figlia di un membro del Senato. Ed io che speravo nella liberazione, e la Pasqua ebraica era l'occasione. Decide il popolo chi esce da prigione e chi meglio di me, che sono un buon ladrone. Ma una cosa che nasce sbagliata rimane sbagliata e non cambia niente, anche se è una legge approvata dalla maggioranza.